Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bolivia con Carla Perrotti. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oggi vi racconto della mattinata passata in casa di Carla Perrotti. Dagli oggetti che si trovano nel suo salotto, dalle fotografie incorniciate e dai cimeli appesi alle pareti, si capisce subito che il viaggio è la sua vita. La sua specialità sono i deserti. Non a caso è chiamata la signora dei deserti, perché è stata la prima donna ad aver attraversato il deserto di Tenerè in Sahara, al seguito della mitica carovana del sale dei Tuareg. È stata la prima donna ad aver attraversato il Kalahari ed è stata la prima persona ad aver attraversato in solitario il Salar de Uyuni in Bolivia, il più alto e vasto lago salato della Terra. Infatti sono qui per farmi raccontare proprio della Bolivia. Nome Bolivia, capitale costituzionale Sucre, capitale amministrativa La Paz. Confini: la Bolivia confina a nord e a est con il Brasile, a sud con il Paraguay e l'Argentina, a ovest con il Cile e il Perù. Superficie: 1.098.581 km². Abitanti: 9.627.269. Clima: la Bolivia gode di un clima caldo, seppur variabile con l'altitudine, a causa della sua vicinanza all'equatore. L'inverno, che coincide generalmente con la stagione secca, quella migliore per visitare il paese, corrisponde al periodo che va da aprile a novembre, mentre l'estate, che corrisponde alla stagione umida, va da novembre a marzo. Forma di governo: Repubblica Presidenziale. Lingua ufficiale: le lingue ufficiali sono lo spagnolo, l'aymara, il quechua. Si parla anche il guaraní. Fuso orario: meno 4 ore rispetto al meridiano di Greenwich e meno 5 ore rispetto all'Italia. Documenti: passaporto con validità di almeno 6 mesi. Moneta: boliviano. Un boliviano uguale 0,103 euro. Religione: cattolici 95%, minoranze protestanti e animiste. Prefisso internazionale: più 591, seguito dal prefisso della città. Per La Paz 2, Santa Cruz 3, Cochabamba 4. Per Carla, la Bolivia è principalmente nel ricordo della sua avventura raccontata nel libro Deserti. E quando con un paese instauri un rapporto così intimo, come fondersi con la sua natura, abbandonandoti a forze ben più grandi di te, allora forse il legame è qualcosa che ti prende l'anima per sempre. La prima sensazione che si ha arrivando in un paese come la Bolivia è quella sicuramente di trovarsi in un luogo duro, aspro, difficile. La Bolivia è un paese in quota, quindi si viaggia sempre fra i 3.500 e i 5.000 e passa metri. E sicuramente la sensazione quando si arriva all'aeroporto di La Paz è quella subito di non riuscire a respirare, cioè i movimenti rallentano, anche un po' il cervello rallenta. E bisogna muoversi veramente, quasi come dicevo io, come dei bradipi per riuscire a superare l'impatto appunto di questa quota, che in ogni caso si sente molto forte a livello fisico, soprattutto i primi giorni. Mi dice che quella è stata un po' la sua prima preoccupazione, perché dovendosi recare nel Salar de Uyuni per compiere un'impresa fisica molto pesante, il discorso della quota le aveva creato qualche dubbio, subito dissolto dopo aver scoperto che sarebbe bastato un piccolo periodo di acclimatamento per superare qualsiasi problema. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contento en tu infinito tus montañas recordadas, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas, desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Regreso tu infinito, Pachamama, Pachamama. E la Bolivia come si può definire? Sicuramente pensando a quel paese, la prima cosa che viene in mente è grande spazio e grande silenzio. Io l'ho definito un luogo ai confini del cielo ed è così. Soprattutto la magia del Salar de Uyuni, ecco, che per me è veramente il luogo, credo, che più di ogni altro mi è rimasto nel cuore. Ecco, la magia di un luogo bianco, di un bianco assoluto, quasi difficile da comprendere se non lo si è vissuto. Trovarsi davanti 12.000 km quadrati di sale, una distesa di sale infinita, come unico contrasto solo questo cielo blu cobalto, è un qualcosa di veramente forte, di veramente emozionante. Sembra di essere sulla luna, non si riesce bene a capire, non si ha assolutamente un riferimento di dimensioni, di distanze, cioè tutto è sfalsato, tutto è possibile, tutto è il contrario di quello che invece appare. La Bolivia è il paese dei salar, come vengono chiamati i bacini di sale naturali, che insieme alle miniere di zolfo hanno sempre costituito una fonte di ricchezza per l'economia del paese, fin dal periodo precedente agli Incas. Tra i più famosi c'è il Salar de Coipasa, ai confini tra Perù e Bolivia, e poi il Salar de Uyuni, il più grande del mondo, talmente grande da essere visibile anche dallo spazio, come prosegue Carla Perrotti. Non per niente, quando avevo deciso di fare questa impresa, mi ero ispirata anche al fatto che è l'unico, l'unico spazio visibile dallo spazio. Gli astronauti, ai tempi di una missione spaziale dell'epoca, appunto, avevano ricordato questo Salar di Uyuni, che continuavano a vedere mentre ruotavano intorno alla Terra, questa grande macchia bianca. E difatti uno di loro, Armstrong, poi al ritorno dalla sua missione spaziale ha voluto andarlo a conoscere, perché era qualcosa che gli era rimasto veramente negli occhi. Ebbene, io credo che se si ha la possibilità di andare sulla Luna, ecco, l'emozione è sicuramente simile a quella del Salar. La natura ci riesce sempre a sorprendere, in questo caso veramente ha disegnato un qualcosa di unico. Questo sale che non è liscio, non è compatto, ma è percorso da disegni che sembrano quasi delle piastrelle volute, disegnate da un artista, in realtà che si creano e si cancellano ad ogni stagione per effetto delle piogge, per esempio. Quindi si ha la sensazione di camminare su un grande pavimento bianco di piastrelle, tutte di sale. In questi buchi, gli occhi del Salar, che ogni tanto compaiono nel percorso, che non sono altro che punti nei quali affiora l'acqua, perché questo Salar di Uyuni appunto è un lago, bacino chiuso, salato, che per effetto di una forte disidratazione, diciamo di temperature molto secche, molto asciutte, in breve tempo appunto si è solidificato, quindi l'acqua comunque è rimasta sotto la crosta salata, per cui questo bacino chiuso salato sopra questa crosta di sale, che può essere anche di 100-120 metri, quindi molto spessa, molto importante, sotto però l'acqua rimane. In alcuni punti quest'acqua affiora, perché essendo una zona vulcanica c'è comunque un movimento sotterraneo. E quando affiora è incredibile vedere il colore del sale, che questi cristalli assumono delle tonalità che vanno dagli azzurri e verdi e rose e grigi, sembra quasi di guardare una miniera alla rovescia, una miniera sotto i piedi. E spesso ho avuto la tentazione, l'ho anche fatto, di mettere proprio le mani in quest'acqua che è salatissima e staccare dei pezzi di sale proprio per guardarmi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bolivia con Carla Perrotti. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo in Bolivia con Carla Perrotti, che mi ha appena portato con sé nel Salar de Uyuni, il bacino di sale più grande del mondo, talmente grande da essere visibile dallo spazio. Un'esperienza che la mia accompagnatrice ha fatto anni fa, attraversandolo in solitario e fissando quei ricordi in un libro dal titolo Deserti. Ma non ci sono solo deserti in questa terra meravigliosa. Al di là del Salar, che direi appunto il luogo che più di ogni altro affascina un viaggiatore che ha la possibilità di andare in Bolivia, la Bolivia offre mille altre situazioni veramente incantevoli. Le lagune, per esempio. A sud del paese ci sono queste lagune colorate, ognuna con una sua tonalità diversa, quindi si passa dalla Edionda, che ha un colore quasi bianco, alla verde, che invece appunto ha un colore verde intenso, l'acqua cambia colore, alla colorada, che poi è un'apoteosi di rossi in certi momenti della giornata che addirittura abbagliano. Questo perché? Perché sono comunque tutte zone vulcaniche, quindi la presenza di minerali ovviamente cambia il colore delle acque. Il termine laguna ha già fatto nascere nella mia mente delle immagini da sogno e il racconto della Perrotti non fa che aumentare la suggestione. Intorno a queste lagune c'è una vita fantastica. Lagune tutte in quote, si parla di 4.500 metri, quindi quote importanti, però ci vivono i fenicotteri rosa. E quindi arrivare davanti a questi specchi d'acqua e trovarsi questi gruppi incredibilmente grandi anche di fenicotteri, animali che in genere si collegano a una situazione tropicale, che vivono, che si riproducono e che stanno benissimo nonostante appunto il freddo, il gelo della notte quando le lagune ghiacciano, la fatica anche di trovare cibo eccetera. Loro ci vivono benissimo, sono ovviamente delle specie particolari, endemiche di quelle zone, però ecco, a quel punto uno si chiede, ma cosa succede? Dove sono? Quindi fa freddo, sono in quota, però ci sono le lagune colorate, poi ci sono anche i fenicotteri. E questo è uno degli aspetti affascinanti della Bolivia. Per non parlare poi dell'altipiano, che si percorre per giorni e giorni nella grande polvere, perché la Bolivia è polvere, però con questi spettacoli di vegetazione bassa, di lama, di vicugne, di alpaca che pascolano libere, di persone che compaiono dal nulla, che in questa vastità quasi monocolore, perché l'altipiano in realtà, a parte un po' di verde, assume dei toni di beige, di rosati, di grigio. Ecco, a un certo punto compaiono delle macchie di grande colore, sono gli abitanti, sono i boliviani, le boliviane, che forse per contrasto con questo ambiente così essenziale, così monocolore, amano vestirsi di colori fortissimi, quasi fosforescenti. Le prime cose che vengono in mente sono i fucsia, i rossi, i verdi, gli azzurri, ma sono tutti colori violenti e loro li portano con una naturalezza, con una semplicità, sempre con queste bombette in testa caratteristiche, le donne poi con queste gonne a multistrati, ecco, che veramente sembrano quasi delle bambole, delle figure di un teatro che si muovono in uno scenario definirei magico a questo punto. De las flores más hermosas, ninguna me gusta tanto, por tus hermosos colores. Te canto yo de mil amores, cantuta que simbolizas a la tierra boliviana, por tus preciosos colores, te canto yo de mil amores. Viva Bolivia amada, con su sin par Potosí, viva mi patria soñada, tierra linda donde nací. Lagune colorate, fenicotteri rosa, altopiani beige tappezzati dagli abiti fucsia, verdi e azzurri degli abitanti. Insomma, la Bolivia sembra essere la tavolozza di un pittore impressionista. Pare quasi che dal bianco del Salar de Uyuni, che è stato il battesimo boliviano per Carla Perrotti, ci sia poi stato bisogno di aggiungere tutte queste tonalità per riequilibrarle l'anima. Io ho avuto la fortuna, dopo l'impresa del 94, di ritornare in Bolivia l'estate scorsa, quindi nel 2010, a distanza di ben 14 anni. Devo dire che temevo molto questo incontro, perché ritornare in un posto che si è conosciuto anni prima, si corre sempre il rischio di vederlo molto cambiato. Così è successo spesso in alcuni dei miei viaggi. Difatti non amo in genere ritornare dove sono stata, soprattutto dove ho vissuto emozioni così forti. Ebbene, invece quando mi sono ritrovata in questo paese, a parte La Paz, la capitale, che naturalmente è cambiata, anche se è riuscita a mantenere il cuore, l'essenza di quello che era La Paz che ho conosciuto, quindi con i mercatini, i mercati delle streghe, le loro credenze, le loro magie, i loro riti, però ovviamente una città cambia e cambia anche rapidamente. Ecco, al di là appunto di La Paz basta spostarsi con la macchina, uscire dal centro abitati e subito ci si ritrova immersi in quella che è la Bolivia che io ricordavo. Mi racconta di essere tornata anche sul Salar e che è stata un'emozione incredibile, perché quello era il suo Salar, quello dove aveva camminato per 6 giorni completamente sola, quello che aveva ancora nel cuore e aveva negli occhi. Il camminarci questa volta con delle persone, perché sono andata accompagnando un gruppo di viaggiatori che con noi viaggiano con Desert Therapy. Desert Therapy è un progetto nato 2 anni fa, così è un progetto nel quale desidero dare la possibilità a chi non può ovviamente da solo avvicinare il deserto, dare la possibilità di percorrerlo con me. Percorrerlo però in maniera molto protetta, molto meno faticosa rispetto a come ho percorso io i miei deserti, soprattutto cercando di cogliere quello che è l'essenza di questo luogo. Quindi è un percorso dell'anima, non è solo un viaggio fisico. Perché? Perché il deserto, i deserti hanno una loro anima, hanno una loro forza, hanno delle proprietà come dire nascoste che bisogna scoprire, però per farlo, per riuscire a entrare nella loro essenza, bisogna farlo con grande semplicità, con naturalezza, con molta umiltà e soprattutto vivendolo in maniera naturale, quindi a contatto col luogo, come io ho fatto, toccare la sabbia, toccare il sale in questo caso, guardarsi intorno, assorbire questi silenzi, questi spazi. Le persone che hanno ripercorso con Carla quell'esperienza, prosegue lei, avevano espresso il desiderio di camminare sul Salar per rivivere le emozioni che lei aveva raccontato nel suo libro. E le emozioni non hanno tardato ad arrivare. Le lacrime hanno fatto da cornice ad ogni passo. Compagni di viaggio. In Bolivia con Carla Perrotti. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono in Sud America, in una di quelle mete che solitamente sono un po' snobbate dai viaggiatori, la Bolivia. Ci sono arrivata con Carla Perrotti, che mi ha fatto attraversare il bianco Salar di Uyuni, ma mi ha anche colorato la giornata con le lagune piene di fenicotteri rosa e la descrizione degli abiti dei boliviani degli altopiani. Adesso mi sta per portare in un luogo decisamente poco visitato dai classici turisti. Ovviamente poi l'abbiamo completato con visitando appunto il lago Titicaca, che poi è un classico della Bolivia, le lagune, però sempre in maniera molto genuina, molto naturale, evitando i soliti circuiti turistici, quindi magari facendo più fatica, allungando i tempi, allungando i percorsi, però vivendo la Bolivia quella vera, a contatto con gli abitanti, a contatto con la natura. Siamo andati di notte in un cimitero inca, è stata anche quella un'esperienza molto forte. Siamo scesi in una miniera a Potosí, una miniera attiva dove ancora lavorano i minatori, ed è stata anche quella un'esperienza incredibile, perché ritrovarci decine di metri sottoterra mentre loro lavoravano, mentre loro facevano esplodere addirittura i candelotti di dinamite per spaccare la roccia, vedere come vivono, come vive questa gente, è stato un qualcosa di fortissimo a livello sia fisico che psicologico. È gente che, immaginatevi, che ha un'aspettativa di vita che non va oltre i 30-35 anni a livello lavorativo. Questi riescono a tirare avanti mangiando foglie di coca, masticando foglie di coca e bevendo alcol a 96 gradi. Questo lo fanno per resistere alla fatica, alla solitudine di quelle ore di lavoro in quelle situazioni veramente al limite della sopravvivenza, con la polvere che entra dovunque, nel naso, nella bocca. Carla mi dice che vedere quei ragazzi giovani abbruttiti è stata un'esperienza umana molto forte. E che però è anche quello un aspetto del paese, un aspetto della Bolivia, e fa parte della loro vita. Loro ci raccontavano che sognano di trovare il filone, quello che li farà diventare ricchi, anche se poi pochi lo diventeranno. Però la speranza non li abbandona. Fuori dalla miniera c'è tutto un mondo, le donne che spaccano le pietre alla ricerca di minerali, i bambini che vivono in mezzo alle pietre, cioè una vita fatta di caldo, di freddo, di polvere, di solitudine, in mezzo a sassi e pietre, a rumore. Cioè, tutto quello che io ricordo di quell'esperienza, devo dircelo nel cuore. Difatti poi quando è successo l'episodio in Cile dei minatori, mi sono assolutamente immedesimata nel loro modo di vivere quel dramma, e la prima cosa che ho detto è: ce la faranno, se riescono a raggiungerli non possono non farcela, perché gente che vive in questa maniera ha la testa per superare qualsiasi difficoltà. Perché io direi, questa è la Bolivia. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta y manta, minero gira causa tuní, mana y mai pisca puanchu, suque tu leita sapescai. Minero manta yuya kunki, minero gira causa tuza, minu arcachari causa pari, huacaricus pasipuscani. La Bolivia è fatta anche di musica, di suoni, di tradizioni soprattutto, strumenti musicali che loro suonano benissimo, danze. E la Bolivia è un paese a 360 gradi, forse è difficile capirlo se non la si visita, se non la si conosce, ma soprattutto se non la si va a cercare in un certo modo. Quindi anche queste tradizioni legate alle credenze, per esempio al rito della Pachamama. La Pachamama è la madre terra, loro fanno delle offerte, sacrificano sempre un lama bianco per fare in modo che la terra poi dia loro la possibilità di continuare a vivere. Un nome molto evocativo, Pachamama, che significa in lingua quechua madre terra. È la dea della terra, dell'agricoltura e della fertilità alla quale si deve rendere grazie. Vivere questa quotidiana ritualità sembra così distante da noi. I frutti della terra poi fanno parte della loro vita, del loro modo di, appunto, di andare avanti, di potersi nutrire. E questi riti, anche se sembrano forse crudeli, in realtà sono assolutamente naturali. Cioè, sacrificio di un lama vuol dire poi mangiare il lama, quindi per loro è un nutrirsi di un animale che comunque è destinato a quello. Ma è proprio il loro modo di vivere, la ritualità, il quotidiano, nonostante la durezza del paesaggio, nonostante il clima che sicuramente non è favorevole, il freddo è intensissimo, il vento batte spesso dovunque, soprattutto appunto altipiani, salar, zone aperte. Ma loro sono sempre sorridenti, sono tranquilli. È una popolazione che, secondo il mio punto di vista, ama profondamente il luogo nel quale vive, ha saputo interpretarlo nella maniera giusta, quindi senza false speranze, senza aspettative. Sanno esattamente cosa può essere per loro quel luogo, cosa può dare loro, e loro si accontentano di questo. Accontentarsi in questo caso mi sembra un verbo davvero straordinario, e penso a quanto spesso venga invece denigrato nella nostra parte del mondo, mentre nelle parole di Carla Perrotti mi dà il senso che nasconda profonda armonia ed equilibrio. C'è una forte componente religiosa che fa parte della loro vita, sono fedeli, sono praticanti, però sono persone, come dire, concrete, non ci sono eccessi in Bolivia, è tutto assolutamente in equilibrio con quello che è il luogo, con quello che è la natura, con quello che questo ambiente pure aspro riesce comunque a dare. Penso che nella vita una volta valga la pena di andare a conoscere un luogo di questo tipo. Può far paura all'inizio, può spaventare, è assolutamente duro, però se si riesce ad andare oltre la scorza di questa durezza, poi si scopre veramente molta dolcezza, molto calore umano. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Bolivia con Carla Perrotti. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il viaggio con Carla Perrotti in Bolivia è quasi arrivato alla fine. Ma prima di lasciarla alla preparazione del suo prossimo viaggio, perché mi racconta che sta per partire di nuovo, le voglio chiedere se oltre agli occhi con i colori di questa terra e allo spirito con la ritualità della Pachamama, può deliziare anche il palato parlandomi un po' della cucina. Dopo aver sentito i racconti dei riti di ringraziamento alla terra madre, sono curiosa di sapere cosa cresce da queste parti e di conseguenza cosa si mangia. In Bolivia si mangiano più o meno sempre le stesse cose, ovviamente non è un paese ricco di colture, di vegetazione, per cui la risorsa principale è la quinoa, il riso, cereali, sono la base dell'alimentazione di tutti i giorni, patate, hanno un'infinità di varietà di patate, e poi la carne dei loro animali, quindi capre, lama, quello che riescono ovviamente ad allevare in quelle condizioni. Quindi direi cibi basati molto sull'uso di cereali, comunque piatti completi, perché quando ci sono proteine, carboidrati, grassi, cioè l'alimentazione è completa. Manca un po' quello che è il cibo, diciamo, le verdure fresche, ecco, le insalate non fanno parte della tradizione della Bolivia di sicuro, loro sono più orientati appunto su grano turco, su questo tipo di alimenti che riescono a coltivare perché le condizioni climatiche sono dure, sono difficili, quindi in quota non cresce tutto, crescono poche cose. Anche se la cucina boliviana non è così rinomata in tutto il mondo, ricordo di aver sentito parlare delle trote del lago Titicaca e del surubì, un pesce gatto dell'Amazzonia. Ma come dice Carla, qui ci sono soprattutto cereali e patate, e di patate ne esistono addirittura più di 230 qualità diverse. Acqua ce n'è fino a un certo punto, perché le precipitazioni non sono abbondanti, semmai sarà neve piuttosto che pioggia, e quindi non è facile sopravvivere. Anche solamente coltivare il campo fuori da casa è una grande fatica. Io ho visto gente ancora arare la terra con i buoi, con l'aratro a mano, questa terra durissima che non riescono a spaccare, piena di polvere, quindi una situazione veramente ai limiti della sopravvivenza, se vogliamo. Però ce la fanno, io devo dire, si mangia bene perché si mangia in maniera semplice, essenziale. Usano delle spezie, sì, come quasi tutte le popolazioni. La base però poi della loro vita gira intorno alle foglie di coca, queste foglie di coca che tutti hanno sempre in bocca, donne, uomini, fa parte proprio del loro modo di vivere. Non pensiamo alla cocaina, perché non c'entra nulla, sono delle foglie verdi che, messe in bocca, masticate, secernano questo succo un po' amarognolo, anche un po' anestetizzante, che però ha la funzione di abbassare il battito cardiaco, e questo aiuta anche a sopravvivere in quelle condizioni e a lavorare in quota. quindi fa proprio parte della loro cultura. Ya me cansé de soñar en sentido contrario, si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar. Si conjugas la vida en pasado imperfecto y jamás aprendiste a creer y a olvidar. Un altro prodotto della terra che viene usato dagli abitanti da sempre e del quale non si poteva non parlare sono appunto le foglie di coca. Coca, che in lingua quechua significa sacro. E sacro era questo arbusto che le popolazioni indigene credevano fosse stato loro donato dallo stesso Dio Sole. Già al tempo degli Inca, la coca era importante per le sue proprietà stimolanti e divinatorie. Gli spagnoli la disprezzavano, ma ben presto scoprirono che gli indios non avrebbero lavorato senza. Al pari di mangiare patate, masticare foglie di coca era ed è praticamente indispensabile per riuscire a sopportare la fame, la fatica e la stanchezza, il freddo e l'adattamento alle alte quote andine. Ma gli stessi turisti, diciamo stranieri, quando arrivano in Bolivia, la prima cosa che gli viene offerta in qualsiasi hotel è il mate de coca, che sarebbe poi il tè di coca, l'equivalente di una nostra qualsiasi tisana o di un qualsiasi tè. Quindi nessuno si stupisce, io stessa l'ho masticata, mi è capitato in condizioni di difficoltà quando mi trovo a quote molto alte, non parlo dell'impresa sul salar perché lì assolutamente, anche se avessi potuto, non ho mai pensato a usare la coca, anche se è naturale, però l'impresa doveva essere pura, assolutamente essenziale. L'avventura nel salar de Uyuni non poteva prevedere foglie di coca, ma Carla non ha nessun problema a raccontarmi di quando con suo marito ha dovuto lavorare in quota e ha sentito il bisogno di adeguarsi ai costumi del posto. Invece in queste condizioni mi sono trovata a girare con mio marito delle immagini oltre 5.000 metri in Bolivia e veramente era una fatica immane riuscire solo a sollevare la telecamera e a muoversi. Quindi abbiamo masticato queste foglie, ma non, niente di che, voglio dire, non sono neanche gradevoli, assolutamente, questo liquido, dicevo appunto, è amarognolo, la saliva diventa amara, a un certo punto si sputa, poi c'è questo bolo tutto verde, impastato. Però così aiutano, credo anche psicologicamente, oltre che fisicamente, a magari a superare un pochettino la fatica. Ecco. Beh, la mia fatica per ora è quella di cercare di trattenere più a lungo possibile le immagini della Bolivia, sperando prima o poi di andarci di persona, magari addirittura con i viaggi che organizza Carla, tanto per rivivere quelle sensazioni esaltanti che lei mi ha raccontato e sentirmi come lei, così in equilibrio con la natura e con la vita. Tutte le imprese di Carla Perrotti le trovate sul suo sito carlaperrotti.com.